Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica. Oggi torniamo nel 1998. Uno dei protagonisti della politica di quell'anno è Fausto Bertinotti, che ritira l'appoggio alla manovra economica del governo Prodi e ne provoca di fatto la crisi. Ma alle elezioni del 1996 l'Ulivo aveva vinto proprio con l'appoggio di Rifondazione Comunista. È il cosiddetto patto di desistenza. Senta, i vescovi italiani, a proposito di desistenza, l'hanno definita immorale, perché secondo lei, secondo loro, c'è un inganno per l'elettore dentro l'atteggiamento della desistenza. No, non è che non c'è nessun inganno, perché viene dichiarato esplicitamente. Certo, anch'io preferirei un sistema elettorale come quello proporzionale, in cui invece di votare contro si voti per. Ecco, ma questa definizione di inganno le dà un po' fastidio a tutti. No, ma perché penso davvero che sia un'incomprensione. In Francia si vota con la desistenza pressoché da De Gaulle in poi. Senta, le fa proprio schifo questa legge elettorale. Eh? Sì, molto. Ma è il maggioritario che è un disastro. È un disastro per tutti. È un disastro in primo luogo per tantissimi elettori che vengono indotti a non partecipare alle votazioni. L'ha cominciato gli Stati Uniti d'America, lo sta importando all'Europa pericolosamente. Senta, ma che cosa vuol dire? Sto con l'Ulivo, ma il programma non mi piace. Allora perché ci sta? Perché dobbiamo abbattere le destre. E basta. Ma le destre, ma è molto. Perché lei pensi, l'abbattimento dello Stato sociale in Italia, un colpo già l'ha dato Dini. Ma se si va avanti su questa strada, sulla linea che Berlusconi annunciò quando era al governo, vuol dire la distruzione sistematica della protezione della gente comune in Italia, ecco, la protezione sociale. Ma che cosa proprio non le piace invece del programma dell'Ulivo? La sua assoluta subalternità al mercato. Assoluta subalternità al mercato. E che cosa le piace invece? La parte sull'ambiente. La parte sull'ambiente, solo? Beh, insomma. È abbastanza, dice. No. È un'ispirazione che in fondo, per solidarietà e per impianto solidaristico, si differenzia dall'altro. Ecco, comunque, se l'Ulivo vince, Prodi deve varare una finanziaria dura, una finanziaria di lacrime e sangue per uscire dalla morsa dei 2.000 miliardi, dei 2 milioni di miliardi di debito e dei parametri di Maastricht. Lei quali tagli sarebbe disposto ad accettare? No, il taglio di Maastricht. Il taglio di Maastricht? Sì. Cioè andare in Europa per Rifondazione non è importante? No, in Europa ci stiamo. No, ho capito. E tutti nell'Europa di Maastricht? Ma nell'Europa di Maastricht non ci sta nessuno. Non ci sta la Germania, ci sta solo il Lussemburgo oggi. E quindi? E quindi bisogna rivedere radicalmente i parametri di Maastricht. Da ricontrattare, secondo lei? Assolutamente. Senta, essere comunista, esattamente per lei oggi, cosa vuol dire? Beh, vuol dire pensare, almeno il giorno dell'angelo, che ci sono milioni di persone che muoiono di fame nel mondo, e pensare tutti i giorni che nelle periferie urbane ci sono tanti giovani che non hanno un destino. E bisogna essere comunisti per pensare questo? Sì, perché solo i comunisti possono pensare e organizzare la partecipazione delle masse per trasformare questa città nel suo fondo. Senta, ma se i suoi voti servissero per farlo nascere, allora questo governo qui che dice lei, glieli darebbe a Prodi? Sì, certo. Per farlo nascere. Sì. Vabbè, una volta che nasce deve camminare, poi lo giudicherà volta per volta. Esattamente. E così ha fatto. E ha ritirato il suo appoggio al governo Prodi, ma il 1998, tra storia e musica, arriverà tra poco. Ma prima, come ogni venerdì, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Cravetto, è sorprendente quanto le cose siano cambiate da allora. Veramente cambiatissime. Hai sentito? Sì. Sto con l'Ulivo, ma il programma non mi piace. Strano. Senti, sembra un po' alla Emiliano, resto, Emiliano, però vado. Michele, resto, ma vado, poi vediamo. Però no, dai, alla fine resto, però io vi dico che questa cosa qua non mi piace. Mi ricorda anche un altro. Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce, voi mi fate, Michele vieni di là con noi, dai, io, andate, vi raggiungo dopo. Che poi è Michele. Brava, si chiamava Michele, tra l'altro, per cui perfetto. Comunque hai sentito anche la finanziaria Lacrime e Sangue, anche lì è cambiato tutto. No, una cosa è cambiata, perché adesso ce lo chiede l'Europa, in più in tedesco, per cui un po' è cambiato. Hai ragione, è un grande cambiamento. Certo. Anche la legge elettorale, che stranamente allora faceva schifo, adesso è cambiato, perché ora, cioè proprio fa non lo sai. Uguale. No, e soprattutto non lo sai qual è la legge elettorale. Cioè, sai che non va bene, che potrebbe andare bene, ma anche malissimo, a tutti e a nessuno. Però allora, se vogliamo allargare il concetto di che cosa è cambiato e che cosa non è cambiato, ma la sinistra, il concetto di sinistra, è un po' confuso? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Cos'è? Cos'è? Non cos'è? Lo so. Tu fai il bagno o la doccia? Non dirmelo. Dipende. No? Giusto, dipende. Anche perché poi Gaber dice anche un'altra cosina. Ma cos'è la destra? No, ti prego. Restiamo concentrati su che cos'è la sinistra. Perché se è già tanto. È già tanto. Poi quello che mi chiedevo è possibile che, risentendo Bertinotti, leader di Rifondazione Comunista, abbia l'accento identico all'avvocato? No, Cravetto, basta. Così. Cravetto, basta con l'avvocato. Sei deviata. Lo senti, lo vedi ovunque. Però perché ho riflettuto. Una cosa in effetti c'è. Cioè, l'avvocato era di sinistra. Ecco, brava. Chiaro, Gravetta, no? Ma chiarissimo, Gravetta, te lo sei detta da sola e hai detto tutto. Comunque abbiamo capito una cosa: bisogna cambiare aria e andare in America. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi. Ma sei nato in Italia poi, capito? Matteo, sei nato in Italia. Renzi, che in effetti è sempre avanti, è andato a trovare idee anti-populismo da Trump. Però ti manca un pezzo, perché Trump non l'ha ricevuto. I have no choice. You're fired. But now we have to go. You're fired, Sam. You're fired. Yes. Sei fuori. È il nostro sei fuori. Esatto. Ma ti rendi conto che neanche Briatore è riuscito a combinargli un appuntamento con Trump? Vuol dire che Renzi ormai sta proprio fuori, eh. Fuori. Più o meno dalla segreteria. Sì. Fuori come un balcone sicuro. Sì. E soprattutto fuori di sé, dai. Sì, però sta fuori, ma in fondo sta cercando, anche avendo idee nuove, di tornare dentro. Chissà con quali splendide novità e nuove idee arriverà dall'America. Crav, novità o non novità, io ti devo dire che con tutto l'impegno possibile, la verità, il sentire comune sull'argomento... Qual è? Alla fine è un altro. Volevo mostrarti la vastità del cazzo che me ne frega. È incredibile. Ma soprattutto è tutto molto interessante. È tutto molto interessante. È tutto molto interessante. Cravetto, sei cattiva oggi, perché guarda, trovi? Forse sì, stranamente. È che forse sono solo un po' confusi, sperduti, un po', per così dire, sperduti. Allora noi però forse abbiamo una soluzione. Chi non è capitato di sentirsi sconfitto da situazioni che neppure riusciva bene a inquadrare razionalmente, in generale nella vita, ma soprattutto in amore. Si apre così: Metti l'amore sopra ogni cosa, una filosofia per stare bene con gli altri, di Armando Massarenti, responsabile del domenicale del Sole 24 Ore. Un manuale d'amore 2.0, anche per dimostrare che il primo passo per vivere meglio è applicare gli spunti della filosofia e delle neuroscienze e del cinema e anche della letteratura a scenari in cui tutti ci siamo trovati e in cui tutti ci siamo sentiti persi. Ma partiamo dall'epigrafe, una citazione di Iris Mardo. Amore significa comprendere, ed è molto difficile, che qualcosa di altro da sé è reale. Armando Massarenti, perché è così difficile? Perché siamo molto presi da noi stessi, noi abbiamo visioni molto molto autocentrate, pur essendo degli animali sociali. Finiamo per incarnarci, lo sapeva molto bene Video, l'arte di amare, che aveva anche ben capito che per sbrogliarsi dalle difficoltà bisogna pensare a una vera e propria arte, e questa arte ce l'ha data lui come poeta, ma anche ce l'hanno data molti filosofi. Ma tu con Shakespeare, per esempio, ricordi che il mondo intero è palcoscenico, gli uomini e le donne non ne sono che attori. Ecco, oggi il web, il digitale hanno reso il palcoscenico perenne e sconfinato, social. Insomma, accettare gli altri come tali, uscire dal narcisismo, è ancora più difficile? Direi di sì, perché questo palcoscenico per Shakespeare era una grande metafora, ma era come appunto in una rappresentazione mediata da un grande autore come appunto era Shakespeare. Quando invece siamo proprio davvero direttamente immersi nel palcoscenico, tra l'altro che è molto meno bello e interessante del mondo di cui parlava Shakespeare, ma è un mondo in rete, spesso queste stesse le nostre caratteristiche diventano un po' delle farse, delle parodie o qualcosa anche di abbastanza brutto, odioso e falso. Ecco, perché la tragedia della gelosia dell'Otello di Shakespeare ci aiuta a capire proprio questa incapacità di riconoscere l'altro come diverso da sé? Perché in realtà non è solo e forse neanche soprattutto un dramma della gelosia, ma è proprio determinato dall'incapacità di questo grande condottiero Otello, che sembra innamoratissimo di Desdemona, però non è vero amore, perché lui non riesce a riconoscere in Desdemona qualche cosa di diverso da sé, con dei propri desideri, con una propria autonomia, con un proprio corpo. Ma per lui, grande condottiero, si tratta di trovarsi di fronte a qualche cosa di non gestibile, di non manovrabile, qualcosa di assolutamente diverso da ciò che era stato fino a quel momento. Quindi è la tragedia appunto del non riconoscimento. Armando Massarenti, metti l'amore sopra ogni cosa, lo abbiamo detto, un manuale d'amore 2.0, però in realtà molto spesso sconfina, diciamo, nell'etica. Ma cosa significa ragionare moralmente? Sì, sconfina nell'etica, ma alla fine diventa proprio un libro di amore e di etica insieme. Il sottotitolo peraltro è Una filosofia per stare bene con gli altri, che è una risposta, se vogliamo, a una famosa frase di Jean-Paul Sartre, che diceva che l'inferno sono gli altri. Sì. Devo dire che è vero. E allora ragionare moralmente significa riuscire a trasformare questo inferno in qualcosa perlomeno dividibile, ecco. Torniamo all'amore amore. Perché citando Alain de Botton e quasi facendone un moderno video, scrivi che l'amore è un'abilità che si acquisisce, non solo un impeto di entusiasmo. Quindi davvero credi che l'amore si possa imparare? Sì, beh, questo lo diceva già appunto Ovidio, non a caso il suo libro, il più importante manuale d'amore di tutti i tempi, si chiama L'arte di amare. Mm-hmm. Se non ci fosse questa intuizione per cui si può imparare dai propri errori, tra l'altro noi nella vita continuamente non possiamo fare altro che questo, no? L'amore è come andare soldato per la prima volta in una terra sconosciuta, dice Ovidio, ecco, e se non abbiamo una guida siamo spacciati. Quest'arte, a mio parere, può essere molto arricchita, questa è l'idea del libro, se noi prendiamo molto sul serio la filosofia, da Socrate fino a Wittgenstein. Ecco, le passioni e i desideri ci mettono nei guai, la ragione, la pacatezza, l'equilibrio, la capacità di mettere insieme queste cose, di fare scelte ponderate, e fa sì che poi siamo delle persone migliori e magari riusciamo ad amare nel modo migliore, o perlomeno quello che fa meno danni. Insomma. Però tra tutte queste regole ce ne sarà una che dice che l'entusiasmo è bellissimo? L'entusiasmo è bello, ma dura poco, cioè diciamo crea un tipo di felicità che non dura moltissimo e si trasforma abbastanza facilmente nel suo contrario. Metti l'amore sopra ogni cosa, una filosofia per stare bene con gli altri, di Armando Massarenti, Mondadori. Hai ragione, pensavo che potrebbe essere una lettura adattissima a quelli del PD. Però a pensarci bene, io non vorrei sentire il peso di avergli creato ulteriori confusioni. Per carità. Cioè, riconosci l'altro come altro, scopri la diversità. Ecco, secondo me invece l'unico concetto che gli è chiarissimo è quello della diversità, perché... così diversi, ma sempre uguali. Oh, i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Benedetta Rese Lucini, 33 anni, di cui 10 passati all'estero, ex country manager Italia di Uber, oggi da manager è diventata imprenditrice, fondando insieme a Claudio Bedino ed Edoardo Benedetto Oval, una app finanziaria che ti permette di fare cosa esattamente? Oval l'abbiamo pensata perché nella nostra nuova generazione, dove ci si sposta spesso e si hanno lavori anche magari molto flessibili, è molto difficile tener conto di quanto si spende rispetto a quanto si guadagna. Quindi abbiamo pensato un'applicazione che aggrega tutti i nostri sistemi di pagamento, dal conto in banca alla carta di credito alla prepagate, e che ti dà una visibilità delle tue spese in modo anche un po' intelligente. Però oltre a controllare quanto spendo, c'è un aspetto interessante, cioè che mi permette anche, tra virgolette, di risparmiare. Ecco, come? Noi abbiamo immaginato Oval come un po' il salvadanaio del futuro. Quando uno tornava a casa, di solito si svuotava le tasche degli spiccioli e li metteva magari dentro un salvadanaio. Sì. Ecco, noi replichiamo un po' questo modo di risparmiare applicando a ogni spesa che una persona fa l'arrotondamento all'euro più vicino. Quindi fammi un esempio, se io spendo 5,40 euro. Se tu spendi 5,40 euro su un sistema digitale di pagamento, sì, ovviamente, noi vediamo questo pagamento, 60 centesimi te le prendiamo in più e li spostiamo e li muoviamo in un tuo salvadanaio digitale, che è un conto online, ovviamente personale, dove vengono spostati tutti questi spiccioli. In più però su questi soldini che risparmio oggi, che però un domani potrebbero diventare una cifra anche un pochino più consistente, voi date dei consigli su come potrebbero essere investiti. Quello che noi cerchiamo di fare è quello di aprire il mercato delle soluzioni finanziarie a basso costo per la generazione dei più giovani che utilizzano Oval, consigliando e comparando, diciamo, diverse soluzioni, e in questo modo l'utente potrà scegliere qual è il suo modo di investire preferito. Quindi un po' un modo per i ragazzi per prepararsi a farsi una pensione privata? Beh, sicuramente diciamo che la nostra generazione non vedrà molta pensione se andiamo avanti così, quindi l'idea di poter mettere via qualcosa magari per comprarsi una casa o proprio per fare per pensare alla propria pensione, smettere di lavorare un po' prima, piuttosto che avere la flessibilità di cambiare lavoro, cambiare paese, per noi è una cosa importante che deve essere insegnata fin dai primi anni in cui una persona comincia a guadagnare. Oval è un'app gratuita ed è attiva all'oggi in Inghilterra. Quando è che arriverà in Italia? Arriverà in Italia in iOS, quindi sull'App Store, fra un mesetto più o meno. Oval è una startup che è stata registrata a Londra, ma con un team di sviluppo che lavora in Italia. Ecco, perché Londra? Abbiamo scelto Londra perché prima di tutto è veramente un paese semplice per aprire una startup. Con 30 euro e un form online si ha la propria azienda, e come anche in Italia ci sono agevolazioni, ma la cosa più importante per il mercato finanziario, infatti il mondo del fintech, come viene chiamato la tecnologia a facilitazione della finanza, questo mondo qua è specialmente cresciuto in Inghilterra perché c'è un regolatore che si chiama l'FCA, che è come la nostra Consob, ma che ha capito il mercato delle startup e ha creato delle soluzioni per essere regolamentati anche come piccole aziende molto velocemente e molto facilmente. Senti, un'ultima domanda. Martedì prossimo sarai una delle relatrici all'incontro organizzato da Girl Geek Dinners Lazio dal titolo Sharing Women Story, cioè condividere storie di donne. Ecco, Benedetta, per te il futuro dell'economia sarà sempre più sharing e sempre più con donne? Assolutamente sì. Quindi Cravetto, un futuro sempre più condiviso e femminile. Esatto. Ma tu sei sicura? Cioè, ce la possiamo fare? Certo, assolutamente. Speriamo. Però comunque sul tema della condivisione ci sono già ottime possibilità e ottimi esempi. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Fiori, oggi ti voglio parlare di un bellissimo progetto che riguarda bambini e anziani. A Piacenza c'è un asilo molto particolare perché chi lo frequenta va dai 3 ai 90 anni. Ah, carino, no? Molto carino. Si chiama educazione intergenerazionale, consiste nel far coesistere nella stessa struttura un asilo nido e un centro per anziani, con però delle zone comuni in cui i bambini e, tra virgolette, i nonni passano del tempo insieme tra favole, lezioni di cucina, prendendosi cura gli uni degli altri. Bellissimo. Dolce, no? Molto molto carino. La bocciofila in comune anche. Esatto. È molto carino. Un po' nonni, un po' nipoti. Un po' nonni, un po' nipoti, quindi due generazioni a confronto. Questo di Piacenza è un unico esempio che c'è in Italia, c'è il primo, un esperimento che sembra però riuscitissimo, perché sia i genitori dei bambini che le responsabili del centro anziani hanno detto che entrambi sono felicissimo di condividere questo tempo insieme. Mi piace, hai scelto una bella cosa, un bello spazio. Grazie. Brava Cravetto. Ne faranno altri? Lo sai già? Speriamo, no, per ora non l'han detto. E allora intanto andiamo al cinema? Sì. I David di Donatella. Che poesia. Donatella, buongiorno. Lo sai che questa volta ho avuto un sacco di problemi perché escono tanti film interessanti e io li volevo dire tutti, ma siccome ci sei tu che rompi, ne devo dire uno solo. Ma tanto prima o poi avrò una trasmissione cinofila tutta mia e ne riparleremo. Cinefila. Hai capito? Zitta, che ti dico questa Jackie. Non ho capito. Jackie, il film, la storia di questa tizia che si chiama Jackie e purtroppo si sposa un presidente americano che però muore. Oddio, ho detto la fine, potevo. Io credo che i personaggi di cui leggiamo finiscano per diventare più reali dell'uomo che ci sta accanto. Ecco, praticamente sono passati pochi giorni da quando qualcuno, che non si capisce molto chi è, ha ucciso questo presidente americano. È Kennedy. Ma che l'hai visto? Ma no, Donatella, scusi, però la storia di John Kennedy ucciso a Dallas nel novembre del 63, francamente la conoscono proprio anche i muri. Ma che mi hai dato del mulo? No, ho detto muri! È uguale! No. Ma zitta. Comunque lei, Jackie, comincia a raccontare questa storia di Dallas e ricostruisce la storia di questa sua vita col presidente. E ti fa vedere anche tanti tagliers colorati diversi che lei indossa. No, passa. Cosa? I tagliers eleganti, i completini che i tagliers. Sì, e anche se questo film è molto parlato, non è noioso. Bene. Perché succedono un sacco di cose importanti e è pure candidato a 3 Oscar e ha anche vinto un premio a Venezia. E sembra anche che ci sia una strepitosa Natalie Portman. No, sembra, c'è. Ok. C'è questa Portman. Sì. E c'è pure Peter Skarsgård. Non si avventuri, poi? Con John Hurt. Sì. E la regia di Pablo Larraín. Bene. Sente, vale la pena vederlo? Sì. Anche perché, te lo dico, è ricostruito tutto molto bene, si sì. vede la Casa Bianca da dentro e poi il regista si ferma tanto sul rapporto che c'è fra di loro e quindi è un film intimo, si può dire? Sì, sì, brava Donatella. Grazie. Prego. Grazie, è intimissimo. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. E su Save Tonight arriva Franco Schipani per annunciare il 1998. Buongiorno Franchi. Ciao ragazze, ciao Ale, ciao. Franchi, io innanzitutto ti volevo chiedere una cosa. Ho avuto qualche difficoltà con il nome di questo cantante, Save Tonight. Eye. Occhio d'Aquila. Non avete mai conosciuto uno che si chiama Occhio d'Aquila? No. È il nostro Occhio di Lince? No, lui è il figlio del famoso trombettista jazz Don Cherry. Che quando lui è nato c'entra con Nene Cherry? Sì, è anche il papà. Hai capito? Il papà siete preparatissimi. Hai comunque visto? Oggi mi sconvolgete un po'. E comunque lui era in tournée quando nasce il figlio, torna, lo va a trovare in ospedale, lui stava dormendo, a un certo punto lui apre un occhio solo, lo guarda e gli sorride, allora dice: sai che c'è? Lo chiamo Occhio d'Aquila. Carino. E Occhio d'Aquila è rimasto. E Cherry? E Cherry, beh, quello è inevitabile, perché è uno dei pochi figli legali che ha Don Cherry, perché Don Cherry ne aveva tantissimi di figli sparsi un po' su tutto il pianeta. Io però devo fare una precisazione da maestrina. Questa canzone è del 1997, ma Schipani insegna che entra in classifica nel 1998. Siete diventati bravissimi. Grazie. Ma oggi siamo tutti gentilissimi, soprattutto. È bellissimo. È tutto bellissimo. Sarà Piacenza. Quindi sarà, salutiamo Piacenza, la bellissima Alessandra Cravetto. Grazie, ciao. Ciao, Ale, ciao. E noi andiamo nel 1998, Schipani, quando? Adesso. Subito dopo la pubblicità.